disperato. Bisogno d'amore, o qualche tipo di attenzione per non cadere. Sento le ferite aperte che conosco e altre ancora. E questo almeno credo, anzi sono sicuro. Oh oh oh oh oh, sarà un momento così. Oppure dura tutta la vita. Io resto qui aspettando e provo a vivere. Sarà un momento così. O durerà per tutta la vita. Io resto qui a guardare e provo a vivere. Scusami se parlo di vita e di tempo, ma cosa rimane da scrivere? Toccare il fondo serve anche a perdonarsi prima di risalire. E dicono sia vero, ma infatti poi mi fido. Questa ansia, questo amore incredibile.